5. Ascolta e controlla. 1. Ogni giorno saluto il professore. 2. Aspettano il treno. 3. Guardiamo la partita di calcio. 4. Usi spesso la carta di credito. 5. Non frequenta il corso di musica. 6. Lavori o studi? Studio. 7. Abita lontano? No, abito qui vicino. 8. Parlate una lingua straniera? Sì, parliamo tedesco. 9. Che cosa fotografate? Fotografiamo il tramonto. 10. Dove incontrano i compagni di classe? Incontrano i compagni di classe alla fermata.